E volevo sentire l'avvocato Barbieri di Bologna, che è un legale del Codacons di questa città, vicepresidente, anzi se non sbaglio, ci ha chiamato questa mattina, non lo avevamo cercato noi, ma ci fa piacere magari sentire anche la sua interpretazione rispetto a questa faccenda del fiscal agent. L'ha sentita, avvocato Barbieri? Sì, l'ho sentita. E lei che ne pensa? Noi, come io perlomeno come Codacons, come vicepresidente nazionale, ai nostri assistiti do l'indicazione di fare un distinguo, ovvero sia di distinguere in realtà chi è opportuno che faccia il concambio e chi no. A mio avviso, chi non è opportuno che faccia il concambio sono tutti coloro che hanno delle firme dubbie sui contratti, e purtroppo sono il 15-20% delle persone che si rivolgono da noi. E quindi potrebbero aver ragione dell'andare a fare l'azione legale contro la banca, perché l'investimento è stato fatto in maniera frettolosa, insomma possono essere fatti tutte le eccezioni di forma e sostanza anche rispetto all'investimento. Tenga conto oltretutto che in realtà dal dicembre 2006, come abbiamo avuto modo di dire anche a Striscia Notizia, come sono intervenuto per due volte, ad oggi lo posso confermare, delle oltre, non so, abbiamo fatto 250 azioni, io parlo della mia regione che conosco bene, ma penso che per il nazionale sia analogo, non ce n'è stata una che non sia stata transatta dalla banca. Le uniche che non sono andate in transazione in prima udienza, vuol dire recuperare l'80-90% del capitale dopo 7-8 mesi, sono andate a sentenza in 15 e tutte 15 sono state vinte. Certo, però io, avvocato, anche lei deve pubblicamente invito tutte le banche in Emilia Romagna, ma anche in altri posti, a Milano, a dirsi se questa cosa non è vera. Avvocato, però, per tutte le persone che non possono fare l'azione legale perché evidentemente hanno sottoscritto in piena consapevolezza l'investimento, che magari in certi frangenti era a rischio perché ci sono stati dei momenti in cui questi titoli rendevano parecchio, quindi c'è stata una sottoscrizione assolutamente consapevole proprio perché c'era una promessa di rendimento interessante. A queste persone qua invece che cosa suggerite? Di aderire alla seconda offerta di Buenos Aires? Guardi, sul sito nazionale nostro ci ha indicato che noi le azioni che prendiamo in carico non ci facciamo pagare se non al risultato acquisito. E per quanto come scusi? Non ci facciamo pagare? Solo al risultato acquisito. Ah, ecco. Cioè, gli avvocati del Codacons non vengono pagati se il titolare del bond non porta a casa i suoi soldi, e questo è un contratto scritto ovviamente. Quindi se noi accettiamo il rischio di impresa, cioè il rischio è solo quando riteniamo che effettivamente ci sono i presupposti, e questo capita nel 90% dei casi. Questa è la realtà. Poi per quanto riguarda il TFA, sappiamo che è un sistema messo insieme dalle banche per allungare i tempi e per evitare che i clienti si rendessero conto che avevano la sua possibilità di agire contro di loro. Per quanto riguarda il concambio, ripeto, chi ha avuto solo problemi di informativa, ovvero sia non è stato informato del rischio del titolo, potrebbe anche accettare il concambio, e questo a mio avviso non essere pregiudizievole per l'azione contro la banca. Negli altri casi, ovvero se in caso di firme false, in caso di titoli, contratto di apertura del conto titoli ante 98 non adeguato dalla banca, in quel caso il contratto è nullo, e accettare il concambio significherebbe forse in qualche modo sanare una situazione di vista della banca.